Nino Brown. Sei cercato, non li hai visti, sono passati avanti. Ho cercato. Ancora te vanti. Dici che noi siamo po' una massa d'ignoranti. Ti spiego un mezzo testo mio e dopo te ci incanti. Siamo in tanti e il gruppo si è allargato. Ma non me guardi, sai che te sei allargato. Scrivo da ubriaco, se non manco me ci incastro. Io non me ne vado, sono arrivato manco un anno. Mi prendo tutto quello che c'ho intorno. Brutto un degno, me te magno per contorno. Mi far coatto, ma mi pari sordo. Ti prendo tutti i soldi e dopo manco torno. Non son balordo, solo un poco più furbo. Sto fumo d'allucinazione come fosse un fungo. Ti raggiungo in due secondi, basta che non mi fai aspettare un paro d'ore, dai scenni. Che non c'ho tempo da perdere, voglio mani strette. Te muovete tutti strani come marionette. Io se tiro la metto soltanto sotto al 7. Io se tiro la metto soltanto sotto al 7. Pure se sto fatto lo vedi che io sto lucido. T'ho preso sul fatto, lo vedi che sei uno stupido. M'è bastato, poi guardate in faccia e l'ho detto subito. Sì, l'ho detto subito. Che se son segreto vai in giro a dirlo subito. Pyrex. L'ho detto sei bellissima, lei si gira e mi dice non fare lo stupido. Se chiama Johnny arriva subito. Tratto la tua faccia da cazzo come un punch ball. Vuoi fottere la gang assurdo? 10 stone, Alan sembra Green Street Hooligan. Soldi park su punizione da tante madri. La battuta ferma e va dritta sotto il sette. E adesso diranno ma non ce ne frega niente. Un satti e bagarra se no la vita è breve. Tocchi mio fratello come cazzo ti permetti. Lui Vittan porta documenti nei miei indumenti. Se non mi parli di soldi non me ne intendo. Salto fuori dalla tua tv come Freddy. Sto ancora fumando canne davanti alle genti. Rione Monti Garba dalla questa merda è per sempre. Rione Monti Garba dalla questa merda è forever.